Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Prevedo un viaggio forse monotono, ma forse anche interessante. Sono blindato nel mio scompartimento, non posso uscire, non posso alzarmi, non posso dirvi il motivo perché è troppo personale. Faccia conto, chi mi ascolta, che sono soltanto io e una signora, in penombra, in un viaggio interminabile, fuori buio. Non funzionano nemmeno le luci del treno, sono le luci in penombra, quelle basse, quelle d'emergenza. E lei ha una voglia impossibile da frenare di raccontarmi la sua vita. Non so perché, a me non interessa la sua vita, ma vedo che vuole raccontarmi qualcosa che proprio non farà a meno di raccontarmi. E naturalmente io sto qua con la mia curiosità e con la mia voglia di sapere. Il mio racconto comincia con un matrimonio apparentemente molto ben riuscito, nel senso che siamo apparentemente una coppia molto ben assortita, apparentemente una coppia di professionisti, quindi agiati, ci conosciamo da giovani, ci innamoriamo e ci sposiamo. Dopodiché ci compriamo una bella casa, facciamo due figli, abbiamo una bella vita molto agiata, molto invidiabile tra virgolette, che sulla carta è una vita vincente, mettiamola così. Sembra un film, anzi un telefilm di quelli americani che tutti sorridono. Esatto, tutti felici, famiglie molto d'accordo, insomma apparentemente una vita bella. Una bella vita. La gente diceva: sono belli, hanno i soldi, si amano, hanno dei bei figli, beati loro, così. Esatto, una bella casa, un bel network relazionale, beati loro. Da non morir mai, come si dice, una bella vita. Invece? Esatto. E invece? E invece a un certo punto, diciamo così, durante il matrimonio io inizio ad avere un certo malessere. Questo malessere è assolutamente apparentemente non giustificato, quindi era un malessere di pancia, non riuscivo a formalizzarlo dal punto di vista intellettivo, perché chiaramente mi trovavo con il non capire dove fosse la fonte di questo malessere, che invece era, che c'era dentro di me, ma non riuscivo a visualizzarlo. Cioè il pensiero era: io c'ho tutto, ho tutte le occasioni per essere felice, perché c'è qualcosa che non mi quadra, non funziona? Esatto, esatto, dico: ma perché mi sento così? Ma quando è iniziato questo malessere? 6 o 7 anni prima che finisse il matrimonio. Quindi già avete i figli, già avete tutto, eravate già stabilizzati in questa situazione? Eravamo già stabilizzati sia professionalmente che appunto una situazione molto stabile. Quindi io in prospettiva potevo proseguire la mia vita serenamente dicendo: vabbè, andiamo avanti così. Malgrado ciò io avevo questo senso di malessere. Ma i sintomi erano motivati da... Cioè di solito uno c'ha il malessere, in certe situazioni viene il malessere, si acuisce. Qual era la situazione in cui sentiva questo malessere? No, io dentro di me sentivo questa cosa, dico: qualcosa non mi quadra, qualcosa non mi quadra. Poi avevo degli attacchi d'ansia, per cui alla fine era una cosa più endogena che esogena, cioè io avevo attacchi d'ansia. Ma questo poteva essere un normale stato ansioso, che tante volte mica è causato da situazioni esterne, cioè... Vabbè, comunque insomma, di fronte a questo malessere inizio a parlare con delle persone, con una persona in particolare, e iniziamo ad esplorare questi elementi. E in realtà io dicevo qualcosa non mi quadra, andavo esplorando le eventuali cose sia dentro di me che al di fuori di me, per cui dico porca miseria, probabilmente mio marito ha un'altra. Il malessere veniva, diciamo, gli prudevano le corna, come si dice in maniera molto più popolare, ecco, questo sentiva. No, probabilmente mio marito ha un'altra, ma in realtà dov'era il problema? Che io cercavo quest'altra, ma quest'altra non veniva fuori. Però come fa a venire fuori? Scusi, non vorrei mettermi dalla parte sempre, però mio marito ha un'altra, aveva dei sintomi perché avesse un'altra, la cosa lo capisce, perché allora se il marito aveva delle disattenzioni nei suoi confronti, il malessere viene perché mio marito non mi calcola più come prima. È abbastanza semplice, vorrei dire banale. Sì, diciamo che l'equazione l'ha fatta lei, ecco. Era diciamo così però. Così. Allora, sì, suo marito la trascurava, il suo malessere veniva dal fatto si sentiva trascurata dal suo marito. Perfetto. E quindi era focalizzata la cosa, non è che il malessere era, non so, per situazioni esistenziali, il lavoro, gli amici. Si sentiva trascurata dal marito, questo normalmente accade così. Ma nemmeno trascurata, perché in realtà era un marito pieno di attenzioni nei miei confronti, cioè mi faceva molti bei regali, mi portava in vacanza nei posti belli. Sì, ho capito, però la vita fra uomo e donna è fatta anche di altre cose. Le altre cose c'erano o non c'erano? Diciamo che non mi sentivo particolarmente apprezzata sotto quel profilo. Ecco, sentiva trascurata fisicamente, quindi dice mio figlio è un'altra, ecco così. Ecco. Esatto. Vabbè, io andavo normalmente cercando. Accade così, il sintomo è questo, ma accade anche per noi uomini. Quando le nostre compagne improvvisamente cambiano pettinatura, cambiano look, si vestono eleganti e a noi ci guardano sempre meno, qualche sospetto ci viene. Per le donne accade qualcosa di simile, immagino, no? Sì, più o meno. Poi in realtà... Ma lui era cambiato, aveva cambiato modo di vestirsi, modo d'essere, si profumava, che ne so, di solito gli uomini quando hanno le amanti si fanno belli, cambiano i vestiti, si sentono molto fichi, queste cose qua fanno, non lo so. No, nemmeno questo. Nemmeno più di tanto. Diciamo che lui giustificava tutto con il fatto che fosse molto impegnato dal punto di vista lavorativo. Cioè non ho tempo per te, ho il mal di testa, queste cose tipiche. Sono stanco. In realtà io mi sentivo anche particolarmente in colpa perché era una persona che professionalmente, è una persona tuttora, che professionalmente è molto affermato. Quindi in realtà dice, però pure tu che maligna che sei... In realtà è una persona che sta facendo una buona carriera. Eh sì, però una buona carriera, diciamo, almeno una volta a settimana a dedicarsi alla moglie non lo esclude. Invece no, nemmeno quello. Vabbè, ma c'erano situazioni contingenti, figli piccoli, insomma, tutta una serie di elementi che ti facevano dire, vediamo. Però inutile, non ci possiamo fra di noi prenderci in giro. Quando una persona è appassionata di te, ti vuole, ti desidera, ti cerca... Uno può averci anche 50 figli, 1000 lavori. I 10 minuti di affocamento carnale li trova. Se non trova nemmeno quelli, evidentemente era calato l'interesse. Diciamo così, mettiamo che era calato l'interesse, ma io non riuscivo a capire né come né perché. E magari lei non gli piaceva più, può succedere. Dopo un po' di tempo uno si stanca di una persona. Cioè noi non ce ne capacitiamo, ma dopo come noi ci stanchiamo della gente, le persone che ci stanno vicino si possono anche stancare di noi. Questo ci sta, secondo me. Non lo so, la vita mi ha insegnato questo, che può capitare con una persona per la quale tu hai ancora molto interesse, attrazione, affetto, desiderio, di te non gliene importi più molto, può capitare. Va bene, può capitare. È triste, ma può capitare. Perfetto, e io esploravo questa dimensione, mettiamola così. Ma perché non gliel'ha chiesto direttamente? Ma io ho provato a chiederglielo, però in realtà di fronte a me ho trovato sempre un glissare l'argomento. Beh, quello è da manuale, si nega sempre, in questi casi, ammesso ci fossero altre persone. E il principio è negare in assoluto, anche di fronte all'evidenza. Right before you close your eyes, whispering your prayers. When the Sandman blows your eyes, I'll be there. When you wake up in the night, sounds a second stair that creaks under the careless foot, I'll be there. Gather roses while you may, bloom is full for the blossom soon will fade and the bloom grow dull. Right before the morning light creeps soft upon the sill, when the shadows chase the night, I never will. When your voice is softly heard singing in the morning air, but the note does not ring true, I'll be there. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Dopodiché iniziavo a fare le mie esplorazioni e cercavo di venire a capo di questa situazione che non mi quadrava. Quindi analisi quadrava delle camicie, della biancheria, delle giacche, dei biglietti, tutto questo ha cominciato a fare l'agente segreto? Non proprio, ho iniziato ad esplorare diverse dimensioni, più che affidarmi all'analisi della biancheria, che mi sembrava una cosa abbastanza troppo semplice secondo i miei paradigmi. Cioè, era troppo intelligente suo marito per lasciare segni di capelli che non erano i suoi in giro, ecco questo. Ecco, e a quel punto invece ho iniziato a dire, vabbè, proviamo ad esplorare la dimensione degli amici, dei conoscenti, del network, vediamo di avere dei feedback vari ed eventuali. Cioè, se qualcuno faceva la spia, ecco, questo pensava, potesse possibile, no? Bah, se qualcuno per errore tirava fuori qualche evento. Anche perché di solito il giro degli amici qualcosa si sa. Esatto. Non lo dicono, ma qualcosa si sa. Esatto. Dopodiché invece io avevo sempre dei ritorni negativi, e parlando con questa persona è uscito fuori che a un certo punto mi dice, Barbara, ma che non mi quadra in tutto questo. Dice, sei sicura che stai cercando nella direzione giusta? Un amico le ha detto questo? Un amico di famiglia? Una professionista mi ha detto questo. Ah. Dice, secondo me stai esplorando la dimensione sbagliata. Quindi già sapeva qualcosa che non voleva dirle, forse? No, no, assolutamente. Diciamo che dai racconti che io facevo, lei a un certo punto ha avuto questa intuizione. Ma quali particolari raccontava lei? Per capire, perché è interessante il percorso, più che l'esito il percorso. Ma diciamo che non erano particolarmente rilevanti, tant'è vero che poi a distanza di tempo ho risentito, ho avuto modo di risentire questa persona e le ho detto, mia cara, lo sai che ha avuto questa intuizione che si è rivelata corretta? E lei non ricordava nemmeno di averla avuta, quindi probabilmente i particolari che io raccontavo non erano estremamente rilevanti. Diciamo, tutto il meccanismo che lei aveva messo in piedi era per individuare la persona con cui suo marito la tradiva, voglio capire chi è l'altra donna, ecco, questo era il senso. Esatto. E quindi aveva cominciato a sospettare persone che magari erano del giro delle conoscenze? Ma no, erano... cercavo di capire che tipo di vita lui svolgeva al di fuori della casa. Quindi lei ha fatto un'analisi di tutte le persone con cui lui aveva a che fare? Più o meno, cercavo di fare la quadra su questi elementi. Ecco, ma come cercava di capire? Cioè, cercava le donne particolarmente avvenenti, quelle che secondo lei erano di facili costumi, quelle che secondo lei erano disponibili? Come faceva? Cioè, come selezionava il campione? Ma diciamo che non selezionavo il campione, io cercavo di capire se sbucava a un certo punto qualcuna che potesse essere di suo interesse, cercando anche di guardare i suoi comportamenti nei confronti dell'altro sesso. Ah, di vedere, vediamo se con questa qui c'è una storia, parlano in maniera particolarmente... Perché lei, il primo sospetto era nella cerchia delle persone conosciute da tutti e due, probabilmente. Ma non particolarmente, cercavo di esplorare la sua dimensione relazionale nei confronti del sesso femminile, per cui vedevo se faceva particolarmente il piacione, vedevo se aveva degli atteggiamenti particolarmente garbati nei confronti del sesso femminile. Cioè, le voleva capire se lui aveva una predisposizione a guardare anche le altre donne, tanto esatto. Cioè, se fa il piacione, evidentemente è uno che è andato a brucare l'erba nel prato del vicino, che se no che piacione fa uno? Ma di solito, insomma, gli uomini che hanno questa inclinazione hanno delle caratteristiche, generalizzando ovviamente, però hanno delle caratteristiche abbastanza tipiche, sono particolarmente galanti, sono particolarmente attenzionanti e così via. Quindi c'è un paradigma. Cioè, già un uomo che si vede che fa il piacione con le donne, poi ogni tanto qualcuna gli mette il laccio, questo è chiaro. Vabbè, capito. Se fosse stata una persona indifferente, dice vabbè, allora è indisinteressato. Vabbè, era piacione suo marito? No, era una persona che si comportava bene, quindi una persona discreta. Sì, quindi lui si comportava bene. Particolari amicizie femminili che potessero destare lo sospetto non ne uscivano fuori. Questo non faceva che aumentare invece i miei sensi di colpa, perché dicevo, ma guarda tu, questa è una persona particolarmente carina, particolarmente garbata, particolarmente attenta nei miei confronti, particolarmente, insomma, tutto, e in realtà dice tu vai pure a sospettare, quindi mi sentivo anche la cattiva della situazione. Alla fine era colpa sua, era lei che in realtà si meritava la disattenzione e lui era innocente. Le donne fanno questi ragionamenti, certo, è chiaro. Sì, più o meno questo era il meccanismo che era scattato. È colpa mia quando sono stata crudele, questo poveretto, vedi quanto è bravo e onesto. Sono io onesto. Probabilmente a me manca qualcosa, sono io che non mi faccio piacere, lo so. Sì, insomma, erano scattati tutta una serie. Siamo anche bravi noi a indurre questi tipi di sensi di colpa, questo devo dirlo. Fa parte delle nostre tecniche di distruzione delle persone, purtroppo. Sì, ma non solo. Ovviamente, col senno del poi, avendo lui comunque qualcosa da nascondere, era particolarmente attento a coprire queste cose attraverso una serie di attenzioni, appunto. Quindi era esageratamente attento nei suoi confronti, dice, è sospetto, dice come mai è tanto gentile, così? Ma in realtà tutte mi dicevano, ma guarda che bello, ogni ricorrenza che ti fa un regalo. In terra ti fa un regalo. È tipico del traditore, il fedifrago fa sempre regali alle mogli, è chiaro. Oppure, ma guarda tu, adesso ti porta in vacanza nel più bello hotel del posto X o Y e tu ti lamenti anche. Pensa un po', veramente, che ingrata. Che ingrata che sei, capito? Vabbè. Quindi avevo anche un contorno di persone che mi dicevano, ma guarda che... ti sbagli. Guarda che tuo marito è innamoratissimo di te perché ti nomina continuamente, perché è sempre preoccupato di trovare un posto bello dove portarti in vacanza, è sempre... attento a pensare al regalo da farti, è sempre attento alla famiglia. Però lei, scusi, lei sapeva il lato oscuro di questa vicenda, che non poteva certo dirlo agli amici. Sì, mi porta in vacanza, ma quando andiamo in vacanza siamo come fratello e sorella. Questo magari probabilmente non poteva dirlo, ma era così. Questo era l'effetto. Però... è chiaro, gli altri non lo sanno mai cosa poi avviene nella sfera privata di due persone, guardando solo l'aspetto esteriore. Quindi lei alla fine doveva darsi una risposta del perché, esatto, di questa cosa. E quindi continuo ad esplorare questa dimensione con, nel mio retropensiero, nel mio background della memoria, questo warning, tecnicamente l'ho chiamato questa specialista. Prima di prendere coscienza di una serie di elementi, uno ci impiega un po', perché non è mai banale. Beh, qual è stato allora l'elemento scatenante? Il giorno X, il D-Day, il giorno in cui si è resa conto che in realtà non è che c'era tanto da girarci intorno, ma c'era una risposta. Come se n'è accorto e quando se n'è accorto? Allora, ero fuori per lavoro, mi sono ritrovata da sola nella mia stanza di hotel, come succede quando uno va fuori per lavoro, e ho messo a quadro una serie di elementi. Quando tu ti trovi da solo, tranquillo, sereno, con il cervello particolarmente svuotato da tutta una serie di elementi contingenti. Quindi ha fatto una sua analisi della situazione. E cosa ha dedotto? Ho fatto una mia analisi della situazione e ho detto: ci sono arrivata. Non è una lei, è un lui. T'as jamais été le genre déprimé, du mal à dormir, à te réveiller. C'est toujours pareil au bout du rouleau. Le jour se couche du mauvais pied. C'était venu un soir d'été. T'avais perdu espoir, plus d'idée. À la sortie du métro, on t'a remis un billet. Avec une photo et la photo disait: si vous avez le mal d'amour, informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Avere degli elementi oggettivi per dire: no, guarda, allora mi tradisce con un uomo, no, con una donna. Un'intuizione, non so come. C'è presente quando dice: non può che essere così? Sì, capita. E dico: non può che essere così. Perché che la tradiva era scontato. Con le donne aveva capito che non era poi così tanto attento, e quindi evidentemente, conoscendolo, perché in fondo lei ci ha vissuto anni, ci ha fatto due figli, non è che alla fine lo conosceva quest'uomo anche nella sfera privata, perché sennò i figli non è che si fanno guardandosi negli occhi. Quindi ha messo insieme degli elementi e dice: qualcosa non mi quadra. Esatto, qualcosa non mi quadra. E a quel punto ho detto: non può che essere così. Ho capito non solo cosa, ma anche chi. Ha trovato anche la persona. Sì. Cos'era, il migliore amico? Una persona che lavorava con lui. Ma quindi invece che la classica segretaria, se la faceva con il segretario, diciamo? Sì. Un suo dipendente, era un dipendente o un pari grado? Un subordinato, diciamo, rispetto... Un subordinato di vario titolo, mettiamolo. Vabbè, diciamo, facciamo... Se suo marito, immagino, sia un top manager, questo era stato un dirigente, non lo so, adesso una cosa del genere, non lo so, vado per intuizione, comunque... Sì, insomma, una persona che lui aveva deciso di far collaborare con lui in modo... Quindi l'aveva preso anche a lavorare con lui, per stargli più vicino. Beh, era difficile da capire, perché... Ci vuole è un percorso abbastanza ardimentoso, perché un marito che lavora con un collega di lavoro dice: vabbè, figuriamoci. Sì, però poi basta, ringraziando Dio la tecnologia in questo aiuta, basta andare a guardare i profili delle persone e si capisce che tipo di skill, profili delle persone, e tu capisci che la profilazione di questa persona era decisamente inadeguata rispetto agli skill professionali richiesti. Ah, ho capito, dice, ha assunto uno che in realtà non aveva le caratteristiche per lavorare con lui. Esatto. Ah, quindi è come uno che assume la donna bella e formosa, gli dice: tieni, da oggi tu sei capo del mio ufficio, ma in realtà questa è analfabeta, la stessa cosa. Quindi si era preso un ragazzotto gagliardo, l'aveva promosso in un ruolo che non poteva avere, questo intende. Come assumere a capo ufficio stampa una che non è nemmeno giornalista. Ho capito, era esattamente quello, accade spessissimo. E quindi ovviamente per essere giornalista lei richiede un'iscrizione all'ordine, sì, un certo tipo di formazione, certi tipi di studi. Dopodiché, quando ti trovi che ti sei messo accanto un capo ufficio stampa che non è laureato... Certo, se io mi mettessi a lavorare con me un idraulico, mia moglie avrebbe qualche sospetto. Questo vuol dire... Un'idraulica donna? Credo che sua moglie le sorgerebbe quantomeno un minimo di sospetto. È chiaro, direbbe: come mai tu ti porti dietro questa donna idraulica rumena e dici che è la tua collaboratrice? Beh, chiaro, lo posso capire, sì. Cioè, voglio dire, mi aspetto che... E quindi... diciamo, la sua redazione sia fatta di persone che sappiano svolgere il suo mestiere, beh, sì, che abbiano, beh, sì, determinati profili professionali. Beh sì, anche perché poi ne rispondo io del mio lavoro. Certo, sì, sì. E quindi questo sarà preso un amante, assumendola nel suo luogo di lavoro, facendolo lavorare con lui. Sì. Nel frattempo lui ha deciso di andare via. Ah, l'ha lasciata nel frattempo? Sì. E, ma come l'ha motivato questo lascito? Un banale non ti amo più. Tanta gente non si ama più, continua a stare assieme alla fine, perché... Vabbè, lui ha detto io non ti amo più, me ne vado. E vabbè, e quindi vi siete separati, divorziati, cosa avete fatto? Sì, sì. A quel punto, nel momento in cui lui ha detto non ti amo più, io ho iniziato ad esplorare ulteriormente questa dimensione, però a quel punto stavo andando nella direzione giusta. Beh, ormai aveva già capito, aveva già individuato il personaggio. Esatto. Ma lo conosceva, lei ci parlava, aveva rapporti con questo ragazzo? No, non lo conoscevo. Non lo conoscevo. Quindi suo marito stava con un uomo, ecco, questa è la sintesi. Ma aveva dato mai, diciamo, nel comportamento, modo di pensarlo? Beh, noi siamo pieni di stereotipi, non è che certo si doveva mettere le canottiere rosa, però era sempre uguale, cioè un uomo che poi frequenta un uomo, una relazione con un uomo, in qualche maniera dovrebbe manifestare qualcosa di diverso poi nel rapporto con una donna, no? O mi sbaglio? In realtà... la capacità di alcuni di questi soggetti, anche per condizionamenti culturali, nel saper vivere nella doppiezza è abbastanza elevata. Cioè loro devono nascondere comunque quella che è la loro natura, di apprezzare l'amore degli uomini. Quindi fanno delle fatiche immense a sembrare eterosessuali a tutti gli effetti, questo è il senso. Esatto, soprattutto per generazioni che non sono esattamente quella contemporanea, ma per generazioni... Beh certo, lui che può dire al mondo, una volta un affermato professionista, con un giro di amici, guardate, da oggi io sto con un uomo, un po' difficile secondo me, no? Poi c'era una madre, un padre, una famiglia, figuriamoci, sarebbe aperto il mondo. Sì, ma non solo, è che appunto nella mia generazione... Freddie Mercury non si è, cioè, abbiamo dovuto aspettare la morte di Freddie Mercury per affermare palesemente che avesse quel tipo di... Ma secondo lei è molto diffusa questa sorta di comportamenti nascosti, velati, di gente che ha famiglia, figli, ma in realtà non ha il coraggio di esprimere la propria natura e vive clandestinamente delle storie d'amore con altri uomini? A quanto pare sì. Non voglio girare il coltello nella piaga, ma lei si è fatta mai il pensiero che alla fine lei fosse stata la donna dello schermo di quest'uomo, che alla fine tutta questa impalcatura del matrimonio perfetto, della bella famigliola, era la sua grande sceneggiata per nascondere quello che lui realmente era? Che non credo che l'abbia scoperto in tarda età, l'ha sempre saputo lui di essere allora, così. Allora, i miei amici maligni mi dicono, sei talmente rompiscatole... che tuo marito ha preferito un uomo. Ma questa è la più grossa stronzata che uno può sentirsi dire, onestamente. No, questa è la cattiveria degli amici. Sì, vabbè. In realtà la verità è esattamente questa, che uno dice si è costruito un involucro, cioè una facciata molto, molto bella e molto ben dipinta, devo dire la verità. Per nascondersi. Che gli ha consentito poi di avere tutta una serie di benefit per nascondersi da tutta una serie. Ma lei l'ha fatto mai poi il cammino a ritroso? Cioè dice, immagina quando eravamo fidanzati, quando ci siamo sposati, dire se c'erano dei sintomi che in fondo questa fosse una forzatura e una sceneggiata. La non sincerità di questo apparato l'ha mai provata a immaginare tornando indietro con la... Dice, ma come eravamo fidanzati, mi parlava d'amore, abbiamo fatto l'amore. Non gli è mai venuto in mente, dice, ma di capire, beh sì, ma qualcosa allora non funzionava già da allora. Sì, però purtroppo per certo punto in cui ti scocci anche di domandarti... Sì, ma lei che gliene poi, lo dico perché per un attimo di crudeltà voglio infierire, ma a questo punto io la sentirei bella affrancata e liberata. E faccia quello che vuole, fine. tutto sommato anche meglio, questo la mette meno in discussione, non è un problema suo, ma proprio niente, non ha fatto niente, lei non ha fatto nulla, non poteva fare nulla, si è trovata purtroppo coinvolta in una situazione in cui era, è stata lei una vittima passiva, doveva rappresentare un apparato scenografico di un uomo che non aveva il coraggio, non aveva volontà di vivere tranquillamente la propria vita affettiva secondo quella che era la, la sua inclinazione. Why don't you ever get the point? You're much too slow for me. Why don't we ever flip by coin? Reliability, some like a lot. Just give a little to me. That's why I sing this song. They call us crazy early birds. Too early never hurts. Warmth is not as dangerous as. I signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Lei ha ancora le attrezzature mentali, le energie e l'aspetto fisico per rifarsi una vita, oppure no? Allora, l'aspetto fisico probabilmente sì. E allora si rimetta su piazza, qual è il problema? Recuperi il terreno perduto. Cioè non è che può stare tutta la vita adesso a rovinarsi la mente, il cervello e lo stomaco a dire guarda che mi è successo, com'è andata? Sì, ma se uno avesse deciso di dedicarsi invece alle sue passioni, al suo interesse, dicendo mi sono liberata di una cosa, adesso ho spazio per pensare a me stesso. Ma mica dico se deve risposare, me ne guarderei bene, ma viva tranquillamente, cioè, il fatto che lo racconta così a una persona che viaggia in treno con lei vuol dire che è un fardello di cui ormai si è liberata, non è che è rimasto attaccato, e lo lasci vivere la sua vita. Certo, poteva dirglielo prima, poteva evitare di mettere su tutto questo apparato, ma per lui lei è stata l'ancora di salvezza, gli ha permesso di vivere una vita normale per una fetta della sua vita, e gli ha dato i tempi necessari per elaborare la sua situazione personale. Quindi lui dovrebbe essergli gratissimo, dovrebbe dire da lei un giorno, dice: guarda, grazie, scusami, t'ho usato, ma t'ho usato per una ventina d'anni, perché non potevo certo dire al mondo che a me piacciono gli uomini. Lui in qualche maniera, vede, si sdebitava con le vacanze, con i regali. Lui dentro di sé dice: a questa gli faccio fare una vita agiata, la faccio star bene, la riempo di attenzioni, ma che vuole, mi lasciasse in pace, a me le donne non mi piacciono, non è che oltre un certo limite per me non è nulla. Magari le voleva anche bene a suo modo, capito, aveva affetto per lei. Io avrei apprezzato molto di più la sua onestà in questa fase, nel senso... Sì, però mia cara, non sei mai onesti nelle questioni di cuore. Togliamoci questa illusione che si possa essere onesti. Non si è onesti, non si può essere onesti. Il nostro equilibrio non è certo basato sulla nostra onestà. L'onestà è un cammino troppo impervio, e poi l'onestà non è detto ci faccia sempre bene. La nostra vita è fatta di aggiustamenti. Quando uno si muove in zone limacciose, come i rapporti ambigui, i rapporti doppi, i tradimenti, gli adulteri, come fa a essere onesto? Non può essere onesto, è impossibile essere onesti. Ti ammazza anche il divertimento di queste cose. No, ma infatti io tutto sommato è una bella fortuna, penso, secondo me, no? Tutto sommato è una bella fortuna. Penso una rivale sarebbe stata sempre davanti a lei come l'esempio di quello che un uomo ha scelto al posto suo. Un uomo è un'altra categoria, che c'entra, come dire, che ne so, come essere una bistecca e averci davanti un vegetariano, che c'entro io? Non c'entro niente. Ma infatti alla fine della fiera uno diceva: bene così, perché poteva andarmi peggio, cioè potevo mettere in discussione il mio modo di essere, invece ne sono uscita senza dover minimamente mettere in discussione il mio modo di essere, o la mia fisicità, ma semplicemente dicendo: ti piace la cioccolata e a me piace. Sì, ma adesso lei le potrebbe piacere un altro uomo? Le è venuto mai in mente questa cosa? Diciamo che il panorama maschile non è esattamente interessante, però sì, non escludo la possibilità, però il panorama maschile non è esattamente... Le piacciono le donne? Potrebbe piacergli una donna? No, vorrebbe trovare qualcuno che ti faccia emozionare. Lo so, questo lo vorremmo tutti, è la cosa più difficile. Fino adesso non ho trovato nessuno che mi emoziona. Nel momento in cui io mi rimetto in gioco con un'altra persona, questa persona mi deve aggiungere qualche cosa. L'aggiungere qualche cosa è darmi emozione, darmi benessere. Comunque lei, anche lei, ha i suoi istinti abbastanza pacati, razionalizzati, anche perché onestamente se suo marito con questo suo andazzo avesse avuto una donna molto più esigente, molto più ruente, non sarebbe durata tanto tempo, l'avrebbe smascherato questa nel giro di 2 settimane. Lei ha un approccio meditativo, riflessivo nei confronti della relazione, e quindi suo marito ha avuto tutto il tempo per potersi aggiustare le cose sue. Un'altra donna l'avrebbe smascherato probabilmente in tempo più breve, l'avrebbe messo con le spalle al muro. Lei prende i suoi tempi, e anche io non mi sono poi tanto arrabattata, che tutto sommato mi stava bene. Ma questo, guardi, lo dice con onestà e lo apprezzo. È la ragione per cui poi la gente alla fine non si deve lamentare, perché alla fine tutti hanno comunque un loro vantaggio dalla vita di coppia, dai matrimoni, dalle situazioni accreditate. Quindi alla fine poi non è che la gente deve strappare i capelli: Dio mio, cos'è successo? Un fulmine. Non è un fulmine, è che in una vita basata, ma come oggi penso che sia il 90% della vita di coppia, oppure è sempre stato così, e solo che una volta esisteva questa sorta di grande, enorme cassa di protezione che era la società, che doveva essere per forza così. In effetti, se guardiamo dentro tutte le coppie, è sempre un aggiustarsi quotidiano, è una fine mettersi, come ha detto giustamente lei, nella comfort zone, e finché uno sta nella comfort zone e sta tranquillo non si pone problemi. Il momento che mette il naso fuori, perché magari vuole una zona ancora più confortevole, si crea il problema. Comunque, guardi, è stata una bella storia, è una storia edificante, è una storia che dovrebbe far riflettere anche tante mogli, che molte volte vanno a cercare nella direzione sbagliata quello che è l'elemento di disturbo della loro comfort zone. Buon viaggio, alla prossima. Grazie, arrivederci. The angel.